Noi abbiamo partecipato insieme agli architetti all'iniziativa all'interno del SAIE che è SAIE OFF, è una nuova iniziativa all'interno appunto del SAIE che ha come obiettivo sostanziale tutto l'aspetto dell'ingegneria e dell'architettura. Come ordine di ingegneri l'appuntamento è al venerdì prossimo, un'anticipazione di quello che noi abbiamo organizzato off in maniera vera, nel senso che poi l'iniziativa è il 10 novembre e che riguarda un'organizzazione di un evento che è chiamato Proiettiamo Bologna. Cosa vuol dire? Vuol dire che facciamo parlare di Bologna una serie di persone della cultura che guardano alla città, guardano ai bisogni dell'uomo e guardano agli aspetti di quello che potrebbe essere Bologna nel futuro, nel prossimo futuro. È interessante questa integrazione, questa interazione degli ingegneri, degli architetti, perché insomma è prezioso in questo senso anche il vostro punto di vista di un settore che comunque ha vissuto delle difficoltà oggettive e quindi credo che possa essere un contributo notevole quello che anche gli ingegneri e gli architetti danno all'innovazione, al futuro, che poi è il tema portante di quest'anno. È perfettamente così, nel senso che gli ingegneri e gli architetti in prima linea per tutto ciò che riguarda la sostenibilità, l'intervento sul territorio, il riuso e ciò che è la nuova immagine di questa città e comunque dell'edilizia si inserisce perfettamente in questa nuova iniziativa di, appunto, come detto, di tanti anni di SAIE. È chiaro che, come abbiamo già detto in sede di presentazione di SAIE e di SAIE OFF, siamo alla prima iniziativa di SAIE OFF e sicuramente noi siamo disponibili a far sistema all'interno di questa città per dare un contributo dei professionisti di questa, appunto, di questa città allo sviluppo stesso del territorio di questa città.